terzo anello, ad alta voce, Il deserto dei Tartari, di Dino Buzzati. Eccolo, Drogo, spavaldo e spensierato, sugli spalti della quarta ridotta, in una pura e gelida notte. Per il freddo le sentinelle continuavano a camminare senza posa, e i loro passi scricchiolavano sulla neve gelata. Una luna grande e bianchissima illuminava il mondo. Il forte, le rupi, la valle pietrosa al nord, erano inondati di luce meravigliosa. Risplendeva perfino la cortina di nebbie ristagnanti all'estremo settentrione. Giù, nella stanza dell'ufficiale di servizio, nell'interno della ridotta, era rimasta accesa la lampada. La fiamma oscillava leggermente, facendo dondolare le ombre. Drogo, poco prima, aveva cominciato a scrivere una lettera. Doveva rispondere a Maria, la sorella di Vescovi, e il suo amico, che forse un giorno sarebbe stata sua sposa. Ma dopo due righe si era alzato. Non sapeva neppure lui il perché, ed era salito sul tetto a guardare. Era quello il tratto più basso della fortificazione, corrispondente al massimo incavo del valico. In quel punto, nella muraglia, c'era la porta che metteva in comunicazione i due stati. I massicci battenti corazzati di ferro più non si aprivano da tempo immemorabile. E la guardia, per la ridotta nuova, usciva e entrava ogni giorno per una porticina secondaria, larga appena come un uomo e sorvegliata da una sentinella. Per la prima volta Drogo montava di guardia alla quarta ridotta. Appena uscito all'aperto, egli guardò le rupi incombenti a destra, tutte incrostate di ghiaccio e risplendenti sotto la luna. Folate di vento cominciavano a trasportare attraverso il cielo piccole nuvole bianche e scuotevano il mantello di Drogo, il mantello nuovo, che significava per lui tante cose. Immobile, egli fissava le barriere di rupi di rimpetto, le impenetrabili lontananze del nord, e le ali del mantello crepitavano come bandiera, drappeggiandosi tempestosamente. Drogo sentiva di avere quella notte una fiera e militaresca bellezza, diritto sul ciglio della terrazza, con lo splendido mantello agitato dal vento. Vicino a lui, Tronk, infagottato in un largo pastrano, non sembrava neppure un soldato. «Dica un po', Tronk», chiese Giovanni, con finta aria preoccupata. «È una mia impressione o la luna questa notte è molto più larga del solito?» «Non credo, signor tenente», disse Tronk. «Qui, alla fortezza, fa sempre questa impressione». Le voci risuonavano grandemente, come se l'aria fosse di vetro. Tronk, visto che il tenente non aveva da dirgli altre cose, se ne andò lungo il ciglio della terrazza per il suo perenne bisogno di controllare il servizio. Drogo rimase solo e si sentì praticamente felice. Assaporava con orgoglio la sua determinazione di restare, l'amaro gusto di lasciare le piccole sicure gioie per un grande bene a lunga e incerta scadenza. E forse c'era sotto il consolante pensiero che avrebbe sempre fatto in tempo a partire. Un presentimento, o era solo speranza, di cose nobili e grandi, lo aveva fatto rimanere lassù. Ma poteva anche essere soltanto un rinvio. Nulla in fondo restava pregiudicato. Egli aveva tanto tempo davanti. Tutto il buono della vita pareva aspettarlo. Che bisogno c'era di affannarsi? Anche le donne, amabili e straniere creature, le prevedeva come una felicità sicura, a lui formalmente promessa dal normale ordine nella vita. Quanto tempo davanti! Lunghissimo gli pareva anche un solo anno, e gli anni buoni erano appena cominciati. Sembravano formare una serie lunghissima, di cui era impossibile scorgere il fondo, un tesoro ancora intatto e così grande da potersi annoiare. Nessuno c'era che gli dicesse: «Attento, Giovanni Drogo!» La vita gli appariva inesauribile. Ostinata illusione, benché la giovinezza fosse già cominciata a sfiorire. Ma Drogo non conosceva il tempo. Anche se avesse avuto dinanzi a sé una giovinezza di 100 e 100 anni, come gli dèi, anche questo sarebbe stata una povera cosa. E lui aveva invece disponibile una semplice e normale vita, una piccolissima giovinezza umana, avaro dono, che le dita delle mani bastavano a contare e si sarebbe dissolto prima ancora di farsi conoscere. Quanto tempo è dinanzi, pensava. Eppure esistevano uomini, aveva sentito dire, che a un certo punto, strano a dirsi, si mettevano ad aspettare la morte. Questa cosa, nota e assurda, che non lo poteva riguardare. Drogo sorrideva, pensandoci, e intanto, sollecitato dal freddo, si era messo a camminare. Le mura in quel punto seguivano il pendio del valico, formando una complicata scala di terrazze e ballatoi. Sotto di lui, nerissime contro la neve, Drogo vedeva, alla luce della luna, le successive sentinelle. I loro passi metodici facevano cric-cric sullo strato gelato. La più vicina, in una sottostante terrazza a una decina di metri, meno freddolosa delle altre, se ne stava immobile, con le spalle appoggiate a un muro, e si sarebbe detto addormentata. Invece Drogo la udì canterellare una nenia con voce profonda. Era una successione di parole, che Drogo non riusciva a distinguere, legate fra loro da un'aria monotona e senza fine. Parlare, e peggio, cantare in servizio, era severamente proibito. Giovanni avrebbe dovuto punirlo. Ma ne ebbe pietà, pensando al freddo e alla solitudine di quella notte. Cominciò allora a scendere una breve scala che portava sulla terrazza e fece un piccolo colpo di tosse per mettere sull'avviso il soldato. La sentinella voltò la testa e, come vide l'ufficiale, rettificò la posizione, ma non interruppe la nenia. Drogo fu sorpreso dalla collera. Credevano quei soldati di poterlo sfottere. Gli avrebbe fatto assaggiare lui qualcosa di duro. La sentinella notò subito l'atteggiamento minaccioso di Drogo e, sebbene la formalità della parola d'ordine, per mutuo vecchissimo accordo, non fosse praticata fra i soldati e il comandante della guardia, ebbe un eccesso di scrupolo. Imbracciato il fucile, egli chiese, con l'accento particolarissimo usato nella fortezza, «Chi va là? Chi va là?» Drogo si fermò di colpo, disorientato. A forse meno di 5 metri di distanza, al lume limpido della luna, egli vedeva benissimo la faccia del militare e la sua bocca era chiusa. Ma la nenia non si era interrotta. Da dove veniva allora la voce? Pensando a questa strana cosa, poiché il soldato se ne stava sempre in attesa, Giovanni disse meccanicamente la parola d'ordine. «Miracolo!» «Miseria!» rispose la sentinella e rimise l'arma al piede. Subentrò un silenzio immenso, nel quale più forte di prima navigava il brontolio di parole e di canto. Finalmente Drogo capì e un lento brivido gli camminò nella schiena. Era l'acqua, era una lontana cascata scrosciante giù per gli appicchi delle rupi vicine. Il vento che faceva oscillare il lunghissimo getto, il misterioso gioco degli echi, il diverso suono delle pietre percosse ne facevano una voce umana, la quale parlava parole della nostra vita, che si era sempre a un filo dal capire e invece mai. Non era dunque il soldato che canterellava, non un uomo sensibile al freddo, alle punizioni e all'amore, ma la montagna ostile. Che triste sbaglio, pensò Drogo. Forse tutto è così. Crediamo che attorno ci siano creature simili a noi, e invece non c'è che gelo, pietre che parlano una lingua straniera. Stiamo per salutare l'amico, ma il braccio ricade inerte, il sorriso si spegne, perché ci accorgiamo di essere completamente soli. Il vento batte contro lo splendido mantello dell'ufficiale, e anche l'ombra azzurra sulla neve si agita come bandiera. La sentinella sta immobile. La luna cammina, lenta ma senza perdere un solo istante, impaziente dell'alba. Toc, toc, batte il cuore in petto a Giovanni Drogo. Quasi 2 anni dopo, Giovanni Drogo dormiva una notte nella sua camera della fortezza. 22 mesi erano passati senza portare niente di nuovo, e lui era rimasto fermo ad aspettare, come se la vita dovesse avere per lui una speciale indulgenza. Eppure, 22 mesi sono lunghi e possono succedere molte cose. C'è tempo perché si formino nuove famiglie, nascano bambini e incomincino anche a parlare, perché una grande casa sorga dove prima c'era soltanto prato, perché una bella donna invecchi e nessuno più la desideri, perché una malattia, anche delle più lunghe, si prepari e intanto l'uomo continua a vivere spensierato. Consumi lentamente il corpo, si ritiri per brevi parvenze di guarigioni, riprenda più dal fondo, succhiando le ultime speranze. Rimane ancora il tempo perché il morto sia sepolto e dimenticato, perché il figlio sia di nuovo capace di ridere e alla sera conduca le ragazze nei viali inconsapevole, lungo le cancellate del cimitero. L'esistenza di Drogo, invece, si era come fermata. La stessa giornata, con le identiche cose, si era ripetuta centinaia di volte, senza fare un passo innanzi. Il fiume del tempo passava sopra la fortezza, screpolava le mura, trascinava in basso polvere e frammenti di pietra, limava gli scalini e le catene. Ma su Drogo passava invano. Non era ancora riuscito ad agganciarlo nella sua fuga. Anche quella notte sarebbe stata uguale a tutte le altre, se Drogo non avesse fatto un sogno. Egli era tornato bambino e si trovava di notte al davanzale di una finestra. Al di là, di una profonda rientranza della casa, vedeva la facciata di un palazzo ricchissimo illuminato dalla luna, e l'attenzione di Drogo bambino era tutta attratta verso un'alta sottile finestra coronata da un baldacchino di marmo. La luna, entrando attraverso i vetri, batteva su un tavolo dove c'erano un tappeto, un vaso e alcune statuette di avorio. E questi pochi oggetti visibili facevano immaginare che nel buio, dietro, si aprissero le intimità di un vasto salone, il primo di una interminabile serie, pieni di cose preziose, e il palazzo intero dormisse di quel sonno assoluto e provocante che conoscono le dimore della gente ricca e felice. Che gioia, pensò Drogo, poter vivere in quei saloni, girare per ore scoprendo sempre nuovi tesori. Tra la finestra a cui si era affacciato e il meraviglioso palazzo, un intervallo di una ventina di metri, avevano intanto cominciato a fluttuare fragili parvenze, simili a fate, forse, che si trascinavano dietro strascichi di velo, rilucenti alla luna. Nel sogno, la presenza di simili creature, mai viste nel mondo reale, non stupiva Giovanni. Esse ondeggiavano nell'aria in lenti vortici, sfiorando insistentemente la sottile finestra. Per la loro natura, esse apparivano logiche pertinenze del palazzo, ma il fatto che non badassero affatto a Drogo, mai avvicinandosi alla sua casa, lo mortificava. Anche le fate, dunque, rifuggivano dai bambini comuni, per badare soltanto alla gente fortunata che non le stava neppure a guardare, ma dormiva indifferente sotto baldacchini di seta. Thank you. Fece Drogo due o tre volte, timidamente, per attirare l'attenzione dei fantasmi, ben sapendo però in cuor suo che sarebbe stato inutile. Nessuno di quelli infatti parve sentire. Nessuno si accostò, sia pure di un metro, al suo davanzale. Ma ecco, una di quelle magiche creature aggrapparsi al bordo dell'opposta finestra con una specie di braccio e battere il vetro discretamente, come per chiamare qualcuno. Non passarono molti istanti che una esile figura, oh, quanto piccola in confronto della monumentale finestra, comparve dietro ai vetri, e Drogo riconobbe Angustina, pure lui bambino. Angustina, di un impressionante pallore, portava un vestito di velluto con un collo di pizzo bianco e non pareva per nulla soddisfatto di quella silenziosa serenata. Drogo pensò che il compagno, se non altro per cortesia, lo avrebbe invitato a giocare insieme coi fantasmi, ma non fu così. Angustina non parve notare l'amico, e neppure quando Giovanni lo chiamò «Angustina, Angustina», rivolse gli sguardi a lui. Con gesto stanco, l'amico invece aprì la finestra e si chinò verso lo spirito appeso al davanzale, come se fosse con lui in dimestichezza e volesse dirgli una cosa. Lo spirito fece un cenno e, seguendo la direzione di quel gesto, Drogo volse gli sguardi a una grande piazza, assolutamente deserta, che si stendeva dinanzi alle case. Sopra questa piazza, a una decina di metri dal suolo, avanzava per l'aria un piccolo corteo di altri spiriti che trascinavano una portantina. Drogo vedeva Angustina ritto al davanzale della finestra e i suoi occhi fissare la portantina. Sì, erano venuti da lui i messaggeri delle fate quella notte, ma per quale ambasciata? A un lungo viaggio, dunque, doveva servire la portantina, e non sarebbe ritornata prima dell'alba, e neppure la notte successiva, né la terza notte, né mai. I saloni del palazzo avrebbero aspettato invano il padroncino. Due mani di donna avrebbero cautamente rinchiuso la finestra lasciata aperta dal fuggitivo, e anche tutte le altre sarebbero state sprangate a covare nel buio il pianto e la desolazione. I fantasmi, già amabili, non erano dunque venuti a giocare coi raggi della luna. Non erano usciti innocenti creature da giardini profumati, ma provenivano dall'abisso. Gli altri bambini avrebbero pianto, avrebbero chiamato la mamma, e invece Angustina non aveva paura e confabulava pacatamente con gli spiriti, come per stabilire certe modalità che era necessario chiarire. Stretti intorno alla finestra, simili a un panneggiamento di spuma, quelli si accavallavano l'uno sull'altro, premendo verso il bambino, e lui faceva con la testa di sì, come per dire va bene, tutto perfettamente d'accordo. Alla fine, lo spirito che si era aggrappato per primo al davanzale, forse il capo, fece un piccolo gesto imperioso. Angustina, sempre con la sua aria annoiata, scavalcò il davanzale, pareva già divenuto lieve come i fantasmi. E si sedette nella portantina. Da signore, accavallando le gambe. Il grappolo dei fantasmi si disciolse in un ondeggiamento di veli. La fatata carrozza mosse dolcemente per partire. Si ricompose un corteo. Le parvenze fecero una evoluzione semicircolare nella rientranza delle case, per sollevarsi quindi nel cielo, in direzione della luna. Nel descrivere il semicerchio, anche la portantina passò a pochi metri dalla finestra di Drogo, che, agitando il braccio, tentò di gridare «Angustina! Angustina! Supremo saluto!». L'amico morto volse allora finalmente il capo verso Giovanni, fissandolo qualche istante, e a Drogo sembrò di leggervi una serietà assolutamente eccessiva per così piccolo bambino. Ma il volto di Angustina lentamente si apriva a un sorriso di complicità, come se Drogo e lui potessero capire molte cose sconosciute ai fantasmi. Un'estrema voglia di scherzare. L'ultima occasione di far vedere che lui, Angustina, non aveva bisogno della pietà di nessuno. Un episodio qualsiasi, pareva dire, sarebbe stato stupido meravigliarsene. Mentre la portantina lo traeva via, Angustina staccò gli sguardi da Drogo e volse il capo dinanzi, in direzione del corteo, con una specie di curiosità divertita e diffidente. Sembrava che sperimentasse per la prima volta un giocattolo a cui non teneva affatto, ma che per convenienza non aveva potuto rifiutare. Così si allontanò nella notte, con nobiltà quasi inumana. Non diede uno sguardo al suo palazzo, non uno alla piazza sottostante o alle altre case o alla città in cui era vissuto. Il corteo andò serpeggiando lentamente nel cielo, sempre più in alto, e divenne una confusa scia, poi un minimo ciuffetto di nebbia, poi nulla. La finestra era rimasta aperta. I raggi della luna ancora illuminavano il tavolo, il vaso, le statuette di avorio che avevano continuato a dormire. Là dentro, in un'altra stanza, disteso sul letto, al lume tremolante dei ceri, forse stava disteso un piccolo corpo umano privo di vita, il cui volto assomigliava ad angustina, e doveva avere un vestito di velluto, un grande collo di pizzo e sulle bianche labbra un raggelato sorriso. Massimo Popolizio ha letto Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati, regia di Anna Antonelli, riduzione di Lorenzo Pavolini, a cura di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.